se proprio lo smitter si è guastato, sì. Ai ai ai, la pagava. E vabbè, mi piace proprio lo smitter. Pure l'ho usato l'altro giorno, funzionava tutto bene. E vabbè, sono imprevisti, dai. Adesso lo faccio scaldare un po', si mette a posto. Ma porca miseria, ragazzi, sempre funziona dove è, non ha mai dato problemi. Eppure non è che a dire che non l'ho usato, no, già l'ho usato. Dov'altro, ma guarda che non c'è qualche filo staccato, tappa che c'è staccato anche qualche filo e non funziona per quello. Magari c'è il filo dello smitter che c'è staccato. Già, l'ho guardato, tutto attaccato, e lo smitter. Adesso si è guastato il magnete, ne devo trovare un altro, Ma proprio quello che ti segnala quando esci, così? Eia, si è guastato il motorino. Pagato. No, sono cose che succedono, dai. Pazienza. Intanto, no, ne lo uso molto, uso più il nuovo, dai. Sì, ma spiegami una cosa, perché stavi scendendo al traffico? Non c'entra lo smitter, cosa dici al traffico? Quello perché non era avvitato bene il coso, il come si chiama? Il microfono. Ah, cavagava. Una volta non si è uscito per niente, un'altra volta si è uscito a tratti, due o tre volte a tratti si è uscito. Lo so, non era avvitato bene il microfono, poi io non me ne accorgo neanche perché non lo dico. Comunque può essere tutta la ruota anche grazie al buco. Ah, grazie, ho ricambiato. Ho bisogno di rivantarmi il resto. La cade la funzione della moto. Questo smitter non è anche le luci, quattro luci, no, e si segna no, 9, 9 più 30. Se se lo segna si accende la luce, no, quando dai contro. Ma di amare che è precisato, e mi ha venuto lì. Avanti, sono andata in canta. Ho già dato la salusia, un canto e tu funziona. Ma che c'ho? E stava a dire, devo trattenere, tranquillo, un po' nuda. Tranquillo, andate in veloce, boh, e ha fatto il suo difetto, va. E pazienza, dai, sono cose che succedono, purtroppo. Un apparecchio che c'ha un po' d'anni, quindi. Può sempre capitare, ma non è un problema, io già glielo trovo un motorino nuovo, glielo sostituisco. Ma guarda, tanto quello mio, se vuoi, se l'altro giorno l'ho acceso, a me ne tutte non riceve, eppure era giusturato, quando era giusturato, era nel neve, non lo so. Lo tengo acceso anche qualche volta, io lo tengo acceso, mi sa vai come sta andata riprendendo si sta che magari stavo scaldando un po', avrà preso un po' di umido e va freddo, ripone la manta e ripone un giornale in alto la luce, specialmente sopra l'alimentatore quando si fredda anche se mi sarebbe in giurino. Però quando prendo sopra e ho messo il giornale, perché qua nella veranda iniziva ad avere ma è vero quasi compensa e gli prendesi un po' di e crea tipo una serra, capito, umidità. E scappa. E adesso pian pianino sta riprendendo, sembra, Adesso aspettiamo un po', vediamo, vai. Che vuole registrato perché ha preso la tarattura, capito? Ma che pure io il mio quello là lo stesso quello che non riceve l'ho provato a girare no col cacciavicino dove c'ha le tarature e ho niente da fare funziona tutto giuro che non ricevo eppure ho provato a schiacciare il macchia, accendere l'acqua, la portata lo mette, ho provato anche a picchiare, lo sento io sull'altro macchino, però non devo io. Poi c'è il FGI, controllate che non li abbia chiusi. Gappa, è controllato, sono trovato laggiù, quanti mi dà, 40 mi dà buca, se la ribloccate. Anche il volo che ci ha buca, abbiamo già dato un paio di colpi. Io avessi serato un vizio, e poi c'è niente. Vabbè. Vuol dire che mi ci ha portato dal dottore, là. Ci avviciniamo lui. E allora, se mi viene bene, passo tanto meglio, sarà una pesceria, solo se è la toccata, se non prendo bruciato non mi do, se prendo tutto bruciato sì, allora ti lo risalvo e me lo risalvo in questo modo. Però se non prendo niente bruciatura, no, non si richiede, perché se è capace non si richiede che la rovinetti. Sai che a loro si è trasferito grazie a chi abita su Barrabas? A loro l'ho buttato su dopo la prima. Non pensavo che non lo sapessi. No, già lo sapevo già. Non so se c'è la cosa da fare, devi ammazzare il cagliero, ma senti. No, lui ha avuto la fare tra una cosa e l'altra e non mi sono così pulitava. Andare, eccolo io, domani, a stato di andare all'ospedale. Quando esco dall'ospedale, lo chiamo la macchina, che hanno sentito mi avvicino. Sarà cazzata, solo che magari lui lo sa di più, e io non mi ricordo, che ripeto, non vedo più di nulla, è bruciato, magari non ha pesceria. Infatti, vogliamoci di sì. Se no i pesi sono aumentati. Quanti Pierpaoli ci Ciao. No, sono un attimino. Speriamo che si riprenda facendo un po' di modulate. No, sono andato un attimino nell'altra stanza. Tu, se non l'ho rifatto, non è questione di abitanti al microfono, te l'ha rifatto il cosa ci stavi parlando. Ma io che sono importante. Come fa non ce la frega niente? Carino, ripeti, come sta vincendo? Ma dice, ma qualche video che gli fa fare il suo contatto del discorso? Grazie, perché ha di nuovo scaricato, ha fatto una scarica perché stavi parlando. Guardi che abbia bisogno di una puttata nel commutatore del PCC. Che microfono stai usando? Ma cosa stai uscendo adesso? Se uscite un po' più male, mi scendi. Ma guarda se sta uscendo. Tanto. No, negativo. Adesso lo sto riaprendo a vedere se c'è qualcosa. E te hai sentito doppio più potente di radio? Cosa ne so io, Mi ha fatto saltare la martingala del perizoma, Perché? No, stavo ridendo. Per quello che ha detto Natalino, è la risata di Antonio, è omicidiale. Magà. Io mi avevo messo il perizoma nuovo, quello che l'ho bardato, e lui me l'ha fatto saltare la martingala del perizoma. Aspettate un attimino, riprendo subito. Via. Raga. mi dispiace per quell'apparato, va bello quello di Antonio, va bello. Stamattina gli ho fatto vedere la lancia Antonio. Oh, beh, le sanguisioni di ricompatibile, fai andare. Una bomba, E tu così, per me non te lo graffia nemmeno così. È fatto. Bagato. Graziano. E te c'è dei microfoni, che microfoni c'hai? E questo è quello che mi ha venduto Natalino. E poi normale, la mano, Mistral si chiama. Poi c'ho la CBC, poi c'ho una Incarnation, F16, preamplificato. Però quello non sto usando. E poi ne ha un altro, non mi ricordo il nome, ce l'ho conservato. Pagava. E ci tiene interliscio a quello lì che lo conosco. Ma a me mi sembrava che c'avevi sa Delta Plus, quello Master Plus, quello che è da base. Ma che dici il blocca un bel? Le metti su 4 della giornata non tocca. Già va bene anche questo. Già va bene, ma tu sei rimasto senza. No, che ce l'ho l'altro. Va bene, sì. Ma c'è un paratorra. Questa che errore che facciamo, diciamo. Quello lì modificato la nostra. Me lo ringraziamo, sì. No, lì è normale. Quello... Adesso aspettiamo quando ci sono l'apparecchio, se non pompa molto lo facciamo pompare. Vagava, ma non mi sa che quello lì, anche io il mio me l'avevo modificato, ma non più di tanto, la capo e basta. Infatti, con le apparecchie si dicono per... Forse non c'è bisogno anche di modificarlo. Oh, io dico che la siano, ci devi dare la 48 e la scelta. Quello è bellino quell'altro. Cos'è grande? Com'è? No, piccolo. Ciao, è meglio che ci vediamo così te la faccio vedere qualche giorno. Io dico da qui. Se ti sento domani mattina quando sto dall'ospedale, me lo fai vedere. Portati, dico, la piedi all'interno, ricevono, ma a trasmettere un po' l'onfo. Quello che gli ho detto io, stava tanto come il bimbi lo sentivo con il telefono, però, perché mi ha preso male. Però, al macchino non lo intendiamo, dai. Ha detto, poi c'ha le SSB, ma dice un casino di cose mi ha detto che c'ha. Ha detto, io qui non ti sento, né in arme né in effetto. Ha detto, c'ha l'antenna, porta la vedere, lo proviamo con l'antenna grande da qua, come faccio io col portatile mio. Quel portatile mio con l'antenna sua, sento però la cinuisci, la troccata. Invece c'ho il petto, attacco l'antennone e con l'antenna spara la porta e bene pure. Gappa, riprendi Antonio, che Marco ce l'ha fatto di nuovo altro. E Antonio si è attentato, Natale di Cristo. Chi non è morto? Sì, grazie. Ehi, ma Raffaele ha fatto una cosetta qua. Ci sta entrando questa vita, dai. Via, e beh, cos'è scoperto? Ma non c'è niente, no, già. Oh. Cosa ne so. adesso come l'hai trascurato, si è vendicato. No, ti stai sbagliando, non l'ho trascurato, io l'accendevo molte volte prima di iniziare a modulare, lo accendevo sempre e poi magari cambiamo l'altro. È andata due volte, ho bisogno anche di parlarci, usarlo più. Io ogni tanto anche con l'omino sono stacciato, l'ho lasciato troppo tempo fermo, anzi grazie a Dio non ha creato nessun problema lasciarlo fermo, perché tante volte non vuol dire. Anni, io chiudo là che è venuta gente e non fa. Ci sentiamo alle prossimine là. Ciao Gianni, ciao Lazzarino, ciao Antonio, ciao Antonio agli ascoltoni circolari. Ciao, alle prossime, riprendi. Ciao, grazie. Buona serata, dai, buon divertimento, ci sentiamo. A domani. Ciao, ciao. Avanti, avanti. Ciao, grazie, ci sentiamo alle prossime. A tutte domani. Avanti, Natalino, se ci sei. Ciao, grazie, dai, alle prossime, ci sentiamo. Saluto e dai, ci tutte le prossime, ciao ciao. Ciao, ciao. Ciao, grazie, ciao. No, oggi io non l'ho lasciato fermo, molto. Cioè, io l'ho usato anche l'altro giorno, l'ho usato. E magari sarà anche un fattore di consumo, dove è possibile, tutte le cose hanno la loro usura. Più e basta, metti della macchina, pure noi passiamo a tipo di gusto. Adesso Marco a proposito c'è la febbre alta. Capo, piano piano che si sta muovendo adesso, speriamo che si riprenda. Natalino! Che mi hai fatto saltare il perizoma poco fa in macchina, ragazzi, è tutta la martingala del perizoma, mi ha fatto saltare l'aria. Addirittura tutto il perizoma, eppure non è che sia striscio. No, la martingala del perizoma mi ha fatto saltare, guarda, un po' pizzo, ragazzi, adesso me ne devo comprare un altro di questi leopardati. Adesso lasciamo un po' acceso per se si riprende questo smitter. Toccato il coso dell'SVR, controlla a vedere se hai toccato il coso della stazionaria. No, negativo, no, già la prima cosa che ho controllato è quello. È proprio lui che non va. Facciamo il funerale, andate. No, è il funerale, ancora l'apparecchio funziona, è il funerale di vita. E cavolo, finché la barca va lascia andare. Finché la barca va, lascia andare, finché la barca va, tu dove vai? Caspa, non si può, finché funziona, va. Il funerale ha lo smitter, se questo non ha parecchio, ma lo smitter, ti ricordi di poi non lo va, c'è. A trovarlo è questo, ma prima o poi già lo trovo, il motorino giusto. Siamo in tutto un altro bis direttamente. Se vuoi trovamelo tu, un smitter del genere. Ah, si trova. Ma infatti può avere i bit di colori. No, ma a prova a chiederglielo a vedere se c'è il bit di questo. E se ne ha qualcuno che non è funzionante, se te lo dà, è questo tipo di lo smitter. Capo, lo smitter mi interessa. Io non lo conosco, se no l'avrei contattato. Che modo bello era quello lì, non lo ricordo più. Questo è Washington. Washington, c'è un presidente Washington, un idea. Mi interessa lo fondo, vai, già lo conosci. Se riesce a contattarlo, se ce l'ha qualcuno che non funziona, però lo smitter buono, glielo dici. Se tu lo che non conosci, io non lo conosco. Parroci. cambia il tempo, ma se non si mai sta l'attimo. Aspetta, invece domani che cambia il tempo, non si mai sta l'attimo. Mi sa che domani cambia quello. Questa è una spia, quando cambia il tempo ti quasi mai. Ai ai ai. Quindi proprio mi hai tolto anche la fascia elastica adesso. Cappa. Allora quanto si arrivendo già? Santiago 1. Adesso si sta muovendo appena appena. RFG. Sta aperto, Sono a tutte le manovre, la lanzetta, quindi prima di pavita, magari una cazzata e tanti via sul tempo. Ah, oh, tranquillo, è così. Non so cosa potrebbe essere. Perché funzionava? Beh, certo che funzionava, pensavo che stava a via andare via alla grande. E poi si è fatto dare un fumo. Bravo, si scarica il condensatore dello smitter. No. Ma sì. No, secondo me è proprio questo qua bloccato. È bloccato perché se sta salendo vuol dire che non è bloccato. Prima non funzionava, ma si sta salendo. Sta salendo appena appena proprio, ma una roba di nulla. Ci vede poco fa addirittura c'è rimasto bloccato con l'apparecchio spento. Anche a Santiago 5, cioè ti puoi immaginare, quello è lui, dai, è un poco di fa. Allora, la gente sta toccando con le bloccate. No, negativo, Natale, gira, c'è la lancetta, è libera. Sicuramente proprio il cosettino, il magnete deve essere, cos'hanno, una specie di magnete questo. va per del 2, però arriva fino a 5 oggi quando fa il 2, però 5 non è il segnale giusto, neanche, è un pochetto strano, dai. Yeah. andrà bene, andrà bene. Natalino, è tornato, sì. Qui è un resto di nobile. Ma ti defumata, vai, avanti. Ah, è stato bravo, eh. L'altra notte al computer, 7 per fumare. L'altra notte vado dal computer. Oh, ma cos'è che oggi mai che tu entrassi? A me manco quelli mi scrivono, infatti evito di entrarci, non c'entro neanche. Ma era un trance di quelli che sembrano donne, ma di quelle donne buone, ben fatte, tutto quanto per le gambe, minigonna, una faccia da donna proprio bella. Una cosa, chi mi aveva fuggito? L'ho baciato magari e poi mi dice che era trance, ti immagini? Natalino, sto manco, io sto entrando, cioè, mi mettono praticamente l'apposta, mi leggo l'apposta, se trovo qualcuno che mi scrive entro, se no non sento le manco, vado da tutt'altra parte, vado, sono proprio lì, non ci va, ma guarda, manco mi rispondo, poi continuano a male quel cavolo di chat, per quello che sto facendo, non ci vado neanche, proprio in chivo, ma mi rispondo. A me addirittura mi chiamano pure loro. Però vabbè, tu non è sempre che trovi gente in gamba, Per dire, l'altro giorno stavo parlando con questa tipa, mi ha chiamato e mi ha scritto se mi faceva piacere parlare con lui. Ho detto vabbè, non c'è problema. Stavo parlando, siamo discriti tutto quanto e ci siamo prima presentati, è stato bello perché lì ci siamo presentati e così. Poi lei mi stava parlando di lei, io ho parlato di me e lei ha fatto e beh. E allora che cosa? Poi sono andato io e le ho detto, allora che cosa? Non mi ha più risposto. Chissà cosa ci pensava lei. Cosa adesso? Ma niente malata, forse non c'è con l'attesa, perché almeno l'avessi cercata io, ma si sta due. Sì, infatti, a me manco mi richiamano, figurati. Mi hanno rotto proprio le scatole, no? Proprio lì non ci vado perché pure, no, non mi rispondono, la fitta. Io la chiamo e non mi rispondono, una cosa per ora. E allora, come faccio almeno di entrarci, un mezzo, con muro fallo, come un figlio a qualcosa. Lì, non è che siamo sempre lì, questo tu devi sapere, se non ce la fare verde, non sono in linea, e là non ti possono rispondere immediatamente, ti rispondono il giorno dopo. Tu sì, furbo, guarda quelli che ci sono in linea, contatti quelli, di modo che se ti vogliono rispondere ti rispondono subito, capito? Ho detto che non sono nato ieri, queste cose le so, le chiamo solo quelli in linea. Addirittura e non mi rispondono, capite? Però se io sono al di fatto, cosa vuol dire? Non lo so, magari dalla foto gli sarò antipatico e non mi rispondono. Se vuole che dica, chi se ne sbatte? Tanto io le donne già le busco lo stesso, anche senza Lo sappiamo che sei grisuto, il draghetto mani, ma... Tu mi piace fare, non mi piace, non vivo. Ah, queste sono maleducate, non ti rispondono. Ma con gripa ti dici? Ma come se mi dici gripa, invece no, ma qui sono mi dici. Che vuoi che dica? No, ce ne sono tante che se la fidano, è vero questo qua, Perché una volta io gli ho scritto questa qua, ciao, posso avere l'onore di chattare con una come te? E lei mi ha scritto no. Quindi le pronte ci sono? Sì, ci sono, ma le tante ci sono sempre, come nella vita normale, no? Ci sono le persone in gamba e le persone sono. Ah, io non è che abbia nessuna pretesa, ma mi va di fare quattro chiacchiere così e basta, dai, non è che andate a cambiare a vermi nei quelli. Mi va bene fare quattro chiacchiere. Ma a me proprio non mi cagano, assolutamente. mi ha risposto non è stato di essere un medico, perché c'era la fotografia di Giorgio Cuni quando era vestito da medico, e gli sono non più di così. Microfono, il silenzio fa poco. Cosa fa un po'? Ti domando aeroporto, siamo allo stato scelto, questa radio, mi senti? Ciao, benissimo, Giovanni. Io, ho visto che lo si muove per il mio smitta. Grazie a tutti, sentiamo, ciao. Ciao, pure a te. Ho detto pure a te, per qua no, non si, se ne si è rovinato, pure questa radio, un pochino, dai, rovinato, dai. Ma già va bene lo stesso, tutti dai, fai giornali. No, era bloccato questo, ha dato un colpo e si è mosso, eh. Ok, va bene a tu. Ah, perché anche tu ce l'hai qua? Allora, oggi l'ha pigliato, così l'ha pigliato, E sono colpi di sbalzi, capito? Sbalzi quando parli, capito? Certe volte magari la voce è troppo forte, allora può dare sì che sia qualche colpo e l'ha bloccato, capito? Ma certe volte si sbloccano subito, ma certe volte si piegano poco a poco e allora tocca e non scende, capito? Capo, qua era sempre fermo, cioè, sempre fermo. L'ho usato finalmente avanti ieri, l'ho usato, andava tutto bene. Poi l'ho sempre acceso, sempre fatto, e si è bloccato. Adesso sembra che pian pianino si stia rimettendo a posto. Vabbè, meglio così allora. Provo a rimanda a vedere un po' se funziona in banda, il segnale rimane più forte e dovrebbe sbloccarsi. Va bene, grazie a tutti, ci sentiamo, ciao. Capo, il banda già è andato per un po', però non sa quello che deve salire. Va bene, Giomari, dai, ci sentiamo. Che sta? Dalla me, te lo faccio salire io, te lo faccio salire io. Che vuoi fare tu, Sabato? Popolino. Ah, se mi prendo quello verso stasera, il baracchino, l'apparato. Quale ti stai prendendo? Faccio Luigi, 100 euro ne vuole, deve fare che me lo prendo. Che cos'è? Rufo, un cavolo si chiama, come vuole essere Luigi? Galaxy brutto. Che bellino, Molto grande. Sei buono, in perfette condizioni ne vale la pena. Oh, se lo vende, se non lo vende io me lo prendo nuovo. Capo, perché è un altro apparecchio che ti vuoi comprare. Come quello? No, sei tu. Cos'ha il Galaxy, no? Cos'ha? Il coso, il presidente. Che Redisens. Presidente, andavano bene come apparecchi, stanno abbastanza bene, dai. Ah, ma non sai di troncare, è che vuoi troncare l'ossa? E chi è che vuoi troncare le ossa? Lo Salvatore. Sei tu, Alessio? Sono io. Parrocchio. Nessuno. Faccio questi prova poi metto l'altro marracco. Questo non male? No. Non sono male. No. Per esempio, il canale di Marco. Adesso non riesco più a sentirti, e sai dovremmo correre. Cambio. Sono dove andrò, quando ci corso, mi corso, altro, altro, altro, altro, altro, altro, altro, altro, altro, altro, altro, altro, altro, altro, altro, fatto hai? Ma la pioggia, è veloce, deve fare la pioggia. Provo a sentirti un po', un pochettino meglio, non più di tanto, ma un po' caretto. Sarà portato, cioè. Passarlo alla grande, no, scusando la radio. Quello di 8, eh? Non c'è un male, ma è schifo, se ti occupo. Mamma mia, prova a alzarla. Ma vai a posto. Sì, chiara è chiara, ma è bassa, è molto bassa. Adesso sta salendo. Ma se poi cambi la patata in bocca lì. Non è chiarificata. Però provo a tardare il volume, non è chiara come dicevo. Si sente come se avessi la patata in bocca. Oh, confermi a me. Capo, io non riesco a sentirlo, quindi no. Non ti posso dire se va bene o va male, perché c'è solo un RM alto. Ciao. un po' di alcol nei polsi, nella nuca e in fronte. accetto, accetto. Non arco, l'accetto. Arco lì, eh. Ah, comunque, mezzo la tanti finiti, vabbè. Badata, è una badata. Massimiliano Bordone, se ascolti la vela che ti fa la chiamata, che lunga. Nulla. A tempo il parchetto. Scendendo, Massimiliano, che punto sì, dai, gli ho fatto quell'affare lì, vediamo un po' se funziona, comunque è sceso a 3,37 adesso, la paga, dove te la truffi, eh? Gli impacchi ti hanno funzionato, non gli impacchi d'accetto, gli impacchi che gli ho fatto di ghiaccio, li hanno fatti abbassare adesso, 3,37 ce l'aveva, ma ce l'aveva 39,30. No, gli ho messo il ghiaccio prima, gli ho fatto gli impacchi di ghiaccio con la borsa di ghiaccio e gli impacchi nel tubo per farli abbassare. Ci ha messo un po' a abbassare, non è che è successo subito. Poi ho messo l'accetto, come hai detto tu, vediamo un po' se li abbassa, io li sono contento di lui, dopo se vedo che la strada non va, carico la macchina per la pediatria. Tutto che riusciamo a trovarla, perché per quello mi hanno che l'hanno trasferita a pediatria. E fai poi una lazione, dai, così. Poi una lazione fai, come quando fai cosa, come si chiama? Capito? Lo so. Speriamo, perché era già scesa, l'ha buttata ieri, era già scesa, poi di notte mi è venuta di nuovo, è stata tutta la notte. Così fai con la febbre alta. Le è passata stamattina, le ho ritornata di nuovo stasera, e la sera sale sempre, si salsa. Non si vede nell'aria. A me poco fa ero tranquillo, stavo parlando con mia moglie, mi viene questo mal di pancia da piegarmi in due. Tipo una colica. Per Paolo. Appagata. E adesso gli ha abbassato un po'. Non è più comata come prima, mi stava impressionando perché se poi da 39,3 sale ancora di più è peggio. Adesso si è abbassata a 38 e 6, sì. A 39,3. 39,3. Diciamo ok, allora là. Ma non freddore cosa, mia? C'è già, non freddore poco, tosse un po' già. Stanotte sta tra l'altro tosse. Stavolta la mano. Ma non compro da niente di tutto. Intanto devo mettere la sede con Vasco Rossi. Per consolarsi, perché c'è lo speaker che non funziona, ma ha detto che è preoccupato, allora si accende il Vasco Rossi per distrarsi. Io non posso andare a distrarsi la loro parte con Vasco Rossi, per essere che mi stracci la... Ah, sì! Ah, cantenni! Allora, metti la nella mano, non compro la niente alla radio. Chi è già? Cosa? Chi è con Vasco Rossi? Antonio! Che faccio da sentire a Vasco Rossi al bambino? Ti ascoltiamo bene, Massimiliano, io ti ho ascoltato tutto il viaggio. E vabbè, Santiago magari sì, però la radio è forte. Ma se potete sentirci le radio? E adesso è arrivato un ombre di Santiago. Beh, se mi piace un po' più a posto. Cioè sì, adesso è proprio un molemo. Che dice che così dalla famiglia? Siamo già dietro, con la famiglia che ha addormentato. E ci sono fatto una cantata che aveva un fame. L'abbiamo fatto mangiare. Pagava. Già va bene così. Anche io quando andavo con l'ideale al grido a fare una passeggiata e cose che vuole la bambina piccolina. Ci andavamo in un angolo e andavamo a mangiare e poi ritornavamo tranquillamente a passeggiare, no, la verità. Manuela, diciamo, Manuela le doveva portare il termos perché mi bastava solo il latte suo, ma Marco quei problemi non ce l'aveva, Marco ciucciava la grana. Ma ragazzi, io mi sono fermato Yeah. raccomando, raccomando Gastone. Ma no, non c'è niente, non c'è, c'è la corna della terra oggi. Allora, la corna non lo so, ma l'indicio è andato qualche volta stamattina perché mia moglie vuole un sacco di patata e non siamo riusciti a trovare perché ha chiuso lì e chiuso anche invece vicino a casa. Quindi la corna non lo so, però non si mi ha una fessilia. Thank you. io non lo so pochino. No, ma mettere il termometro per vedere come se è fatto di una scelta. Sentirti anche se c'è il terreno un po' alto, dai. La discesina quasi di carro, la mia, dai. Sei schiaccio qua. Per farmi tenere fuori adesso. Sì, ti tiro fuori, passo. Guarda che tiro fuori, dai. Io vedo già la parte alta di sassari. Così lo porto. Adesso mi sei sparito. Addirittura. Vedi un po', io vedo tutto sassari da qua. Dalla posizione in cui è. Io adesso non mi ascolto. Ma tu come mi ascolti? Vedi un po', guarda che il segnale, bro. Adesso sì che ti aspetto, adesso sì. Guarda, stiamo quasi transitando nella galleria artificiale, vedi? No, adesso che ti ascolto, Ma ti sei quasi a fondo scala, sì, quasi a fondo scala, lì. Dile, segnale 9.25 a volante, fatelo conto. Allora, ho iniziato a spostare un po' il movimento. Così, qua. Spiegare. Tutto a voce del qua, molto chiaro qua. Un attimino che facciamo questa galleria artificiale. Però ho messo la francata, ti come la mia raccolta, ci sta mancando una pianta che si trova nella confa. Ah, c'è pace a cui di rompere lo smitter a questo Roberto Quadrante. Dice non lo sentivate, quella per lo mettere la 40, io l'ho sentito fortissimo tutto il passato. Aspetta, però lo sentivo, io lo sentivo. Massimiliano dice non lo sentiva la per Paolo. E vabbè, ma è la zona diversa, la roba è tu, però anche la si è aperta, lo sentivo. Lo sentivo anch'io, a me mi arrivava 7, 9, 8, dipende come si spostava, ma lo sentivo tutto il viaggio. Qualcuno sotto le sta chiamando, non è di chi chiama. Torna a giocare allo strano. Chi è? Qualcuno me lo sta uscendo? Ma no, tu sei? Ma tu sei? No, cosa io? E sappiamo il segnale tuo qua. Io me lo segnale mio, tu lo senti la mia radio come che c'ha il bip, che è diversa, c'ha l'eco di tutto. Stava che c'è la pompone, per poco fa stava provando la radio. Non c'è lui di nuovo, non sta uscendo. Ma quello è basso, quello è 25 dollari, va a 9,35 minimo. Se sei in una zona, se giù arriva molto più basso. Ma era una radio. Ma che anziché qua ne ha sta arrivando. Ma io non ce la prendi? Questa è la sua idea. Ci sono di Napoli. Di Napoli? Ciao. E tu quando eri giù una cosa, la devi dire la regola più forte di adesso. Adesso sei 9,30, o con fede 9,40. Perché magari qua sono tutto chiuso da palazzo, il capito, lì l'abbiamo aperto. Ma guarda, sotto quella specie di galleria del viadotto che c'è sotto, prima della 131, di lì ha detto, vediamo se mi sentite anche nel coso, dimmi che ho scoperto anche quando eri sotto il coso. Addirittura. Vabbè, ce l'abbiamo di fronte, io se siamo di fronte, per quello non è che ti senti, allora adesso sei 9,40 anche qua comunque. Ma sono qua, sta mangiando il bambino, dai, non se la butta a misurare, ha detto che adesso mangiamo, vabbè, sta mangiando, vuol dire che... dire che è andata bene. Se prende il termometro e misurate allora. Tu che ha finito, mi ha detto, papà, ho finito di mangiare. Vicino con la bocca al microfono. Ho detto, ti ha detto, papà, ho finito adesso di mangiare, adesso c'è la misura, capo. Sta parlando, vabbè, io sono un attimino, ho acceso un secondo, ora vi saluto a tutti, dai, per avermi un po' di partita. Ciao Gianni, Pierpaolo, Massimiliano, Antonio e compagnia cantante. Quale è la parte mia? Stavo con un QTC per te, vabbè, c'è il K2 che c'è il valito di te, ogni volta ti cerca. Cazzo, devo tagliare, non c'è mai, io questi giorni sono entrato, ma non ho più sentito a lui. È entrato più di una volta, anche stamattina è entrato e ha cercato di te. Vabbè, comunque, buon correnti e ci sentiamo. Ciao di nuovo a tutti. Ciao, Roberto, ci ascoltiamo. Roberto, che partita c'è? Quanto era prima? 39 e 30. Ma funziona? C'è quello lì. dovrebbe essere proprio un caso, là, cioè, però è quello. Funziona. Si è passato un pezzo. Abbiamo fatto un po' di macchine, cavolo, di solito funziona anche col ghiaccio, però niente da fare. Tranquillo che è quello che gli ho fatto scendere, ma tranquillo già. È già contattato questa cosa qua. Mi sta a gridare a voci, mi è passata, mi è passata. Vedi. Ma un attimo di bianco là per me. Contento. Lo so. lo fa andare di contermiglia. Non devo prendere correnti di aria, non devo prendere freddo freddo, se è possibile. Quindi la comparte molti, seppure porti specialmente, in periodia con questi la dama qui, si tira a molti. Ma d'altronde se tu li tiri da casa non li puoi lasciare scoperti, non per fare, e quello le offre per forza. Ma non mi lasci un malato, li compri, da poi è complicato se chi dà, ma tanto per toglierlo dalla macchina devi coprire. E mai ti dirò tu, allora io sono quello. Ma una volta io l'ho fatto, proprio laddove, con la temperatura, se ti vuoi dare la lunghezza, tanto me la tira da poco. Non so perché quando c'è una febbriata bisogna scoprire o coprire, questo è risaputo. Però quando li porti all'aria libera li copri per il momento, però già c'hanno la febbre, se li porti all'ombreddo si pigliano la broncopolmonite. E ti dico una cosa, l'hanno messo proprio una pastiera grande in mezzo alle ghiacce. E la avrì. Prima di portarlo comunque fate sempre l'accetto e poi vedremo. poi se le abbassano. Va bene, dai ragazzi, io sono arrivato, vi lascio una continuazione di questo, io passo il QRT, ce la riascoltiamo. Ciao Gianni, Antonio, Paolo e ciao Marcolini, ti andrò in bene stanotte, dai. Se n'è andato Marcolino, ciao, perché adesso sarà pure più forte che l'abbiamo messo sotto al centro. Ciao, ci vediamo con RT. Salutami tutta la combriccola, avanti Pier Paolo. Ciao, ciao, ce lo ascoltiamo, ciao, buonanotte. Facciamo, ci vediamo, buonanotte, ce la riascoltiamo. Alla prossima, avanti, ciao. Ehi, dai. Io pensavo che tu dovessi fare quella cosa la stasera per noi. Piero Paolo? Ho detto, pensavo dovessi andare la stasera. Salve, dovremmo andare di là. Dove dovremmo andare? Dove staranno la pompa? Solo che non ti ho capito. Tanto tu capito, io ho capito della mamma. Pensava che dovevi andare là dove vai là. Hai capito? Che tu mi hai detto, forse vado domenica sera, sei il giorno. Vado le notte di sera, domenica sera. Che abbagliate, abbagliate. Vabbè, allora ti riposi un po' là. Mangiato una coscia di pollo e di salata, una frutta e buco. Ma tanto per gustarla, mezzo chilo qua. No, che fa? Io prima non ne sto mangiando nulla mio adesso, quindi ti puoi immaginare se ne mangiavo mezzo chilo. Allora avrei fatto davvero danno, tutto quello che non ho mangiato prima lo mangio prima un giorno, no? Ho proprio gustata, una fettina, ma fina fina, proprio per assaggiarla, era un bel uomo. Vabbè, tanto piace spero, Stava tirando a mangiarmene altro, poi mi sono detto, oh, no, no, sono da buio, come ti torna, oh? Stava guarda, Luca, no, io mangio troppo. Va bene, ehi, Graziano stasera ti chiedo che... Cagina, non mangiava chi va via Rubia 9, stamani si chiama mangia di rimanere in colore di roba. Io sono dire che ho mangiato una cosa bella. Stamattina non ho mangiato, poco fa. Che cos'è questa cosa bella da mangiare? Mi sta incuriosendo. Quelli che piacciono a te, quelli fritti che piacciono a te. Fritti, fritti, fritti, fritti. Ah, i calamari. Non ho potuto annunciare un po' di calamari. Non si può annunciare, io non so, ma quelli erano invitati troppo. E anche piacere pure a me. Se i calamari che li sempre i polvi mi piace. A sempre mi piace fatta con i piedi. i polpi, oppure la seppia perché c'è fatta con la pasta, messo nello di seppia e pettinato la seppia in mezzo alla pasta, tanta poca e buona così. Polpi fa molto sua per me è in salata, olio, aceto, cipolline sott'aceto, prendiamo aglio, peperoncino, vai. Fatta così in salata è la morte sua. Li mangio anche con sugo piccante alla diavola, ma non mi attirano come quella in salata. Quella in salata mi piace molto bene, anche con le patate su così. Ma no, non lo so, io non so il caso. Che li va bandiera, lucidi, lucidi, lucidi, Edoardo. Ma poi ci mettiamo a fare la cosa, ci fa capire, ci puoi arredire, tutto soddisfatto. Da poi, signor Guardo, che fai, sono comunico in casa, c'è questa traccia, ma come capire? Perché ti rilassi sempre le rinfurne, no, io invece ce li ho, ma non sono furbi, io ce li ho i capelli, mi crescono lunghi tutto quanto, ma al centro non sono furbi, lo sai perché? Perché uso il gel, che mi fa perdere il gel. Praticamente mio nipote le ha preso un periodo che stava studiando e gli hanno detto che era da nervoso, dallo stress che le ha presi. Gli hanno dato una cura, poi non ha più avuto problemi, se non li sono rifresciuti totalmente. Capelli si desideranti, anche lunghi, poi secondo che periodo era si portavano anche lunghi a boccoli, io li ho avuti lunghissimi capelli proprio a boccoli, che mi scendevano tutti a boccoli. Dedicato questo microfono qua, è proprio dedicato all'Aran 48. Sta che l'ho portata a casa, l'ho messo in frigo come me l'ha regalata era. sta facendo che sta cantando per abbrazzare. Ma infatti, per dire, non le ho gustato un goccio, è nulla. Antonio, non c'è, non c'è. no, è appena mangiato magari. Per cui di la forte, l'ha appena mangiato, e si guarda che c'è ancora un paio di sapere. Un paio di sapere. Infatti, Falchetto ci si. Fatta un sogno di Falchetto. Porra. Beh. A posto. Avrò fatto un ellino. Avrò fatto qualche cinchettino in più. Parchito, sì sì. Anche los. Hola. Ecco qua, fatto. Abbiamo fatto. Gamma, già va bene, già va bene. Già va bene. Uia, uia. Io qua ho fame ma non mangio perché ho avuto quel problema lì. Non voglio toccare nulla stasera. Non la Giovanni aggiunta, tutta la sera. Magari un pacco di cracker me lo mangio, va. Metto di cracker e guarda nel computer, magari ci sta bene. Va. Ma mangio il cracker allora? No, adesso no. Dopo, quando chiudo qua, io accendo tardi. Il computer lo accendo sempre tardi. Tanto è vero che tipo un buon pranzo Gianni e così io rispondo a mezzanotte e mezzo. Io comunque adesso vado a smontare l'acqua del mio perché sono scoppio. Proprio sto dire che io ho terminato il tutte. Terminato io dico? Tutte quante, l'ho fatto tre barattoli di più una sottoio e frazzato. Vai tu. Non mi sono arrivato a notare. Qua tu vai che vado a smontare. Per esempio, se avevo il freddo, sono morto, quelli di maiale, quelli di pollo. Tu li metti pure le maiale che le mangia, li metti pure le pollo e le mangia. L'odore che prende. No, quelli di pollo sono più, diciamo, più sani, meno grassi, ma anche dopo dicono di pollo, poi magari tu pisciato, c'è tacchino, pollo, cosa di buono. Di pollo però ce la puoi. Ma poi la referenza è gente, tu le muovi una, le muovi l'altra, ci mettiamo il pollo. Siamo ai matti. E mio è diffidente, mi siete una cosa diversa dal sito, sta tre ore viaggiando. Me la devo prendere in mano, farle la dolore della mano mia, allora la mangio. Anche loro il pollo. Il pollo proprio, si mette la parte del pollo, con la consigliata, con pezzo, eh. Mamma mia. Viaggio, Sì, cazzo di orchi. Ho dovuto già andare con te e passarla fuori, perché non riuscivo a fare la parte del porco, perché come amano i sottiletti, ma tanto che amano i sottiletti, cazzo puro. E noi non avevamo a fare, volevamo i sottiletti al quartiere, io buttavo il tetto e subito corria, si prendono di burro, erano in colle dei piatti, corri. Subito andava a correre, non lo so, e saliva dappertutto, allora prendi, cazzo fuori. È un gatto speciale, ma probabilmente mia sorella la sera non è che faceva cene grosse perché era sola, magari si mangiava prosciutto di quelle sottilette, quella roba lì, magari se era lì, provava se era prosciutto di sottilette, queste cose qua, la sera si arrangiava così, mangiava leggero. Radio 1, Radio 1. La mia. Così era, mi guarda, guarda, così. Ma così non mi senti, così. Quando mamma che fa una fica di sera te attaccata la bocca? Ma è sentito. Lo so. Qua bisogna mettere un microfono Sirio, sì, c'è poco da fare, un microfono glielo faccio andare questo apparato. Ma l'altra lo fare troppo poco. Cosa? E ma l'altra lo fare troppo. No, per qua, così sarà 2 cm dalla bocca, così è 3 cm, così è 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cm. Ma che ricordi? Sì, allora non ho più non amplifica secondo il tempo. Apri un MPG in tutto. Sta aperto. Non ricordando come sei stato con la presentazione del MPG da lontano. Fatto. Ma se tu mi stai dicendo che a 10 centimetri non si sente, se quello era un 10 centimetri mi sembra il cambiato. Qua, così ce la testa tra la bocca. La bocca. E così amici. Così, no, non devo fare così perché sennò ho attaccato proprio col microfono normale, la stessa cosa. Oh, my God. sospensione romana. Ti sento stravista stasera. Certo che ti sento, è una bella voce anche. Vabbè, salutiamo la cosa, dai. Avanti, Pierino. Mamma mia, mi senti? Cosa cambia? Ci ho preso un'opera di molti, un altro po'. No, io pensavo fosse quello lì, perché ce n'è anche uno che fa le pizze. Sono due buone le pizze, ma l'ho presa l'altra volta. Ma come forma a lei? Scusi, accudi due già. Vabbè, cicchi cicchi cicchi. Via. Che ti vecchiani strappato, ti vecchiani. Che fa la... sai cosa fai questa pernacchia? La fai in culo a cazzare tu. Siamo di guerra che... Perché gente guarda, esiste al mondo. Verità. Uno quasi più malato, dico faccio ma anche il giorno ma poi la portata, e poi non fa di lui. Sai cosa vuoi che fosse? Aiutarmi, lo lasciamo sfogare di qua. Fatto sentire che è sempre una quattro, dai. Sì. Quando c'è il QRM però deve entrare, così ce lo copre. Adesso non c'è. Scappa. Ecco cosa vuoi fare? È un po' malato di testa. No, non vedo un capo. La pernacchia questa. Cacchè, non vedi che c'è cacchè, non è nato. Mi hai tirato un po'. Te sei stato. Capito. Ok. Devo giocare. Dalla volta è tu. Ha pagato la ciappa in carriera e con la cacchiagna sta faccia. Ha attaccato un fiato. Antonio, Antonio. Attenzione, attenzione Antonio. Yeah. Occhio che c'è il portantista. Ma io sto schiacciando l'up-down e me ne vado sul 45. Io da così lo facciamo crepare da solo. Guarda, mi senti? Vabbè. Comunque, qualche parte ci vuole comprare il mio adesso di apparato, lo sai. Mai. Comprare quello lì. Ma io non riesco a comprare in ditta. Se mi ha detto che la sera che ci vorrebbe gli aghi, non lo sa manca lui cosa vuole. Io infatti non ci credo, non me ne ha finita per gli anni di lavoro. Oh, se è per aiutare una persona lo aiuto, me lo vendo, ma almeno so che c'è un apparato che va bene, no? Che dici è a fottitura. Ah, se non vuole, è basta lasciarmi. Quello che mi deve lasciare, noi glielo ordiniamo, glielo prendiamo. E da lui cosa deve fare? Io no, non so. Non lo so già, a me mai ha detto queste cose. Stasera. Io non ci faccio più caso, cosa gli ha detto per un... Di tutto e di più. Ma è più comunque, no? E allora? Parlavo più qua. Io ho fatto ascoltare un po' il parole di dolce. Ma quando mi viene a fare con quel portante, la caccia, il master. Sento che l'invato, lui mi sente, e non mi sento altro nessuno. Posso dire tutto quello che voglio, capisci sai quanto me la loro. Adesso io sono partito dal più piccolo di casa sua al più grande. Se non mi ha una tutta la crisi, e poi fai che non la conosco, io la non conosciuta la madre. Gappa gappa. È fabbricato, ah no, è miserabile, lì se lo fabbrica. No, non fabbrica. Se c'è questa è la madre, ma no, la ex moglie, di quella che c'è adesso, cazzo, la madre anche la strada. Ma comunque, io ho detto alcune cose del passato della moglie, se lo sono messo un cazzo. Ma a chi? A lui? Perché lui è sposato, No, il padre, il padre, perché il padre non ci riporta il padre. Ah, così è. Allora, mi sembra del capo, che era perché, che è sano. Vabbè. Ah, io. E non ha nel riposo, no, sono talmente miserabili, che sono come ti ho pulito. Io ho regato le pompe, è proprio... Allora, è l'unico sistema per contrastarlo, però allora mi fa sentire che cosa è. Perché è importante che non si tirano mai, che non ha che non si sente nessuno, c'è solo lui. Mi stava facendo una domanda, Marcolino, quanti canali arrivano per baracchino? Certo! Che Marco mi stava chiedendo quanti canali arrivava per baracchino. E la tua macchina omologata 40 cavalli, no? Perché omologati sono 40 cavalli. Ci ha avvicinato un po' di più. Ma cazzo, eccomi qua. Ha trattato la bocca, come fa? Va, capo. Così bene. Ia. Cavessa grava. È interessante che si sentono bene. Ma. Uia. Che gente, cazzo. Non cagare il cazzo, qua. Ma io posso pensare, sai? Vabbè, non la metto mai con quello, però un periodo. Passa quel periodo, poi ti dimentichi. No, lì su cazzo. È proprio assiduo. Io problemi non ne ho. I problemi non ne ho. Non ho fatto piazzare qua. Guarda, non tocco manco l'apparecchio. Puoi immaginare, io ti giuro il pulsante dallo microfono e cambia. Figurati, quanto ne posso avere io? Ma bello sdraiato, me la puta sai dentro. Io ho trattato di ricco, per oggi mi fa male la gamba e l'unica cosa è quella lì che non sopporto. Male. Oggi ho fatto male a togliermi, ho provato a togliermi la ginocchiera e andare senza. Stanno avendo più un nuovo microfono, ho già. Quale altro? Sarà. No, mi hanno detto che andava male, che scendiva male. Non è vero. Male non è vero. Un pochettino di acuti, ma non è niente di particolare. Ma disegni un bel fosso con il microfono, quello vero? Io poi ve lo ricordo Mario Massa come ti scia, solo che Mario Massa c'ha la voce grossa e gli va bene, quello va bene a Pier Paolo nel microfono, io lo va a dici bene. Non so che va bene a lui. Allora, sai che andava bene, ma così ti invia a me. Anche con questo lo sentite o no? Sì, ma lo sentiamo più forte però. Ma mi pare che ci devo mettere qualche microfono vecchiaera, tipo SBE Shure o Tarrel più 30. Adesso vediamo cosa decidere, anche Tarrel più 2 ci va bene, quello c'è resti in video, poco buono, poco buon fa chissà. Non parlo, E la vengo, io l'ho venuto nuovo, nuovo, nuovo. L'ho venuto a Principe, a Stefano, le dammo, alla fine ora. Mi è fatto male. Vanno con le batterie, perché se non siete quello più vanno, che non andavano con le batterie 7,5 si chiamavano le batterie, erano l'argento mi pare, una cosa del genere. E praticamente dice che facevano male, avevano ritenuto la circolazione, quindi adesso io vi stavo mettendo ultimamente le batterie della macchina fotografica che non sono a 7,5 ma sono a 6 volt. Andava bene lo stesso. No, capito. Capito quali sono? Boh, non ci sono molto arrivato, ma forse ho mezzo capito. Perché non ci fa la batteria 9 volt in realtà? No, 7,5 la batteria è tipo lo stilo però piccolina come quello dei telecomandi più o meno, però più grassa. Bravo, abbiamo noi, basta, 9 volt. Come, mio figlio, come mai certi ragazzi li chiamano i 4G? Che era nei bici. E glielo vedo, sì. Oggi il domandone. No, sempre di domande, non è che sto anche che cos'era 27, 465, 464. Perché sono le frequenze dell'apparecchio che corrispondono al canale. Devo imparare un pochino, scusa. Lui deve chiedere per San Peso, sempre bisogna chiedere. C'è Roberto Quadrato che ti chiede ogni cosa, ed è grande, figurati. Beh, mai te devi imparare, che si finisce. Ma Roberto chiede, guarda che sapere non è mai male, non è che abbiate detto chi chiede. Informarsi e sapere non è mai male. Io, vabbè, invece di chiedere, vado su internet, se non so una cosa la cerco, magari cerco una parola che non mi quadra, non so cosa le voglia dire. Ma non passate, no, ma quelle sabbie, guarda, su internet e me la dico. Quando la trovo, se la spiegazione. Ah, il viaggio è apparecchio, Marcolino. Ma la madre sta cercando di allontanare dall'apparecchio. Se no, io devo trasmettere le mie passioni, ma non è così. La madre dice, ah, che schifo, questo è baracchino, questo è l'apparecchio. La passione deve essere anche così, c'è uno dei piatti. E se lo vita la pensa diversamente. Non mi piace. Se sente gente così, mia moglie non è che sia di quelle di parolacce, ma se sente gente che parla male dà fastidio. Vabbè, non stiamo sempre dicendo parolacce, no? Capita qualche volta che è un po'. C'è qualche giornata un po' alteruccia, però non è che uno dice da dove poi se no se non imparano in casa imparano in cura, non è che già lo sai, anzi non imparano più pura che in casa. Vabbè, non interessate che non insegniamo lui, se anche in casa imparano le cose che imparano fuori, che li deve dare l'educazione, allora buonanotte. Non so già, però purtroppo è così, così non sa, uno non sa il significato, però ha rispetto. Vabbè, è che ha sentito un po' di gente prende, cosa, si è fatto una brutta concezione. Come nella vita normale, la vita normale è come si possono, due si possono fisicare, cosa c'è? Ma noi che siamo sempre la deluglia, quindi noi non che... Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. Sa tutte le libriette, ma ne piangi, come sa ne uscire quella. Assolutamente. Il momento che succedono certe cose divine per qualche personaggio o guasto, e c'è il momento che, come la vita normale, io la faccio così. Quello che ho fatto è che mi sono girato un po' in più, quindi non fai una mano, ma ho girato. Ciao, ciao.